Ci vuole calma per tirare avanti. Com'è difficile, lo sai anche tu. Sono rimaste solo poche mani e carte buone, non ne prendo più. Ci vuole calma per tenere il tempo. Restare indietro un attimo, divento matto dentro a questo battito. E note giuste non ne prendo più. Ci vuole calma, lo sai, per starci dentro. Restare fuori troppo non mi va. Non posso dire, sai, di andare al massimo. E questa cosa nella gola non scende mai. Ma lo sai, mi basta una parola per fermare il vento che ci porta via. Ma lo sai, mi basta una parola per fermare in fretta questa nostalgia. E intanto penso ai sogni che facevi ancora quel tramonto. Ci vuole calma per remare in questo mare di parole amare, amore per non perdere anche te. Ci vuole calma per remare in questo mare di parole amare, amore per non perdere anche te. Ci vuole calma quando l'amore prende il treno e scappa via. Rimane solo l'abitudine. Le cose dette non hanno più senso. E io ti parlo e tu che non mi senti più. Ci vuole calma quando sai che il gioco è l'ultimo. Perdere tutto è un attimo. Rifletto sempre meno, lavoro a cottimo. E questa cosa nella gola non scende mai. Ma lo sai, mi basta una parola per fermare il vento che ci porta via. Ma lo sai, mi basta una parola e fermare in fretta questa nostalgia. E intanto penso ai sogni che facevi ancora a quel tramonto. Ci vuole calma per remare in questo mare di parole amare, amore per non perdere anche te. Ci vuole calma per remare in questo mare di parole amare, amore per non perdere anche te. Ah.